Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, benvenuti in frequenza, questa è Blu Radio Veneto e siamo capitati all'interno della programmazione serale che si chiama Blu Radio Sera. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Casavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche oggi, martedì 13 dicembre del 2011, abbiamo il nostro bel e meritato concertino live. Decisamente, sono molto contento stasera perché sì, i ragazzi ti vedo raggiante. Sì, perché mi hanno detto che fanno una cosa che erano sono 20 anni che non la sento dal vivo. Sì, sì, ma poi dopo ne parleremo. So che tu al minimo cenno di qualche canzone di quelle storiche. Sì, perché ho una certa età, lo sai che ho una certa età. Ti viene un appetito ad ascoltarla. Esattamente, no? Esattamente. Vero. Benissimo, quindi in questa serata ospitiamo i Cranchi che sono venuti a trovarci direttamente da Mantova. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao. Allora, ha fatto buon viaggio? Ottimo. Sì, portati i tortai qua succa, come o perlomeno noi da queste parti sentiamo parlare molto spesso di questo piatto che non va tantissimo di moda, però l'occasione è sempre quella buona per venire invece noi dalle vostre parti ad assaggiare questi piatti che dicono assai buoni e prelibati. Allora, parliamo di cucina subito in principio, Cranchi. Comincio io? Sì, comincia tu. A me non piace la cucina mantovana. Ma bestemmi. Se si può dire una cosa, i tortelli con la zucca sono l'unica cosa che è comune al fatto che noi abitiamo in diverse province. Infatti, è vero. Siamo all'incrocio di tante province. Il tortello di zucca è la costante che c'è in tutte queste province. Però c'è una piccola differenza. Dalla parte mantovana la fanno con l'amaretto. Esatto. Ah, vedi, sul ferrarese senza amaretto. Con la parte mantovana col sugo di pomodoro. Con la parte, nella parte ferrarese invece col sugo di carne, col ragù. Ecco, sì, qua, però... per gli ascoltatori che sono messi in contatto solo adesso, si pensa abbia iniziato una nuova trasmissione di Blu Radio Sera all'insegna della cucina. In realtà no, perché siamo sempre comunque all'insegna della musica e con noi sono i Cranchi per la presentazione di un loro album dal titolo davvero curioso, Caramelle Cinesi. Allora salutiamo con ordine Massimiliano, Marco, Simone, Federico, così come sono stati iscritti nella recensione del gruppo, quindi rispettivamente voce, chitarra, basso e batteria. E sono qua proprio con i loro strumenti, più tardi avremo modo di sentire anche proprio dalle loro dita, oltre che dalle loro voci, quelle che sono le canzoni appunto presenti in Caramelle Cinesi, ma come ci aveva già comunicato Maurizio prima, anche qualche bella sorpresa. Allora, da dove cominciamo? Innanzitutto, il perché? Il nome del gruppo lo sappiamo, perché Cranchi è il cognome di Massimiliano. Cognome, sì. Esattamente. Sì, poi naturalmente Marco degli Esposti, Simone Castaldelli e Federico Maio. Caramelle Cinesi, invece, il titolo del CD... È tratto da una delle canzoni che è Marco Polo, sì, ispirata da una donna, quasi, come quasi tutte le canzoni del CD. Infatti è dedicato un po' alle donne. Ecco, così, bene. Così ci prendiamo una fetta del pubblico. E metà del pubblico è messo a posto. E Caramelle Cinesi perché... Speriamo anche più di metà. Caramelle Cinesi perché è un disco da scoprire, un po' misterioso e un po' Marco Polo, un viaggio alla scoperta di nuovi mondi, quello che facciamo anche noi stasera, alla scoperta del mondo di Cranchi, per l'appunto la Cranchi Band che è qui presente nei nostri studi di Blu Radio Veneto. Allora direi, per iniziare bene e fare ascoltare a chi ci ascolta di frequente le nostre frequenze, un pezzo dall'album per cominciare, per definire quella che è la musica di Cranchi. Allora, per iniziare, cosa abbiamo scelto? Le ragazze di San Frediano, che è uno dei pezzi meno acustici del disco. Volutamente disco... meno acustici. Sì. Perché per dare uno stacco rispetto agli altri. Esattamente, sì, sì, rispetto agli altri. È anche posizionato a metà dell'album. Esatto, così. Sì. Pezzo numero 4, mi pare. Il pezzo numero 4, esattamente. Bene, allora ce l'ascoltiamo, poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. ragazze di San Frediano sono tutte ubriache. Ballano scalze e si prendono a calcio. Se dai a loro due baci, sono contente. Le ragazze di San Frediano non sospettano ancora niente. Io resto seduto a guardarle da qui. Mi sento un po' solo, un po' stanco, un po' vecchio e penso a Madame Bovary. La bambina di strada pianta un pezzo di pane. Casa nuova ha riempito i suoi capelli di ricordo. Dalle due soldi e l'ho già dimenticato. La bambina di strada non ha ancora il senso del peccato. Aspetta che cresca il suo albero nel catrame. Intanto si mostra più grande, più bella e sicura in mezzo a questo ciarpame. Il conte di Montecristo è arrivato da poco in città. Amuleti e la fama incrocio in un bar. Il solito ignoto pensa di essere notato, ma il conte di Montecristo è soltanto un personaggio inventato. E io sono tranquillo e a posto con la mia coscienza. Faccio un po' di corsa la sera una volta al mese, opere di beneficenza. Le ragazze di San Frediano ora hanno tutte capito. Si son messe le scarpe e han cambiato vestito. Il trucco è sfiorito e son sempre quelle, ma io le trovo ancora più belle. Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo scartato la prima caramella cinese, questa canzone che si intitola Le ragazze di San Frediano. Abbiamo i Cranchi qui in studio con noi per presentarci quest'album che appunto si intitola Caramelle Cinesi, ai quali mi rivolgo innanzitutto per complimentarmi per questo primo pezzo dove oltre all'armonica era presentissimo un piatto che mi sembra sia chiamato in gergo micantino o ride dai più, ecco, che suona Federico Maio, che qui è proprio molto presente. Un brano cantautorale molto folk, come direbbe Maurizio. Molto molto dilaniano, molto potremmo dire. Molto dilaniano o dilaniato. O dilaniato, potrebbe essere così. Da, no, come Dylan. È come Dylan. Bene. L'abbiamo visto poco tempo fa, Dylan. Sì, l'hai visto? Padova, sì, è vero. Cosa ti è sembrato? Dilaniato. Un po' dilaniato. Ecco qua. E allora, sì, beh, chi va avanti per troppo tempo poi finisce così. Era con Mark Knopfler, però. Sì. Anche lui. No, ma anche era perfetto. Era perfetto. Ecco, bene. Allora, Le ragazze di Sanfrediano è un santo che si sente molto spesso dalle parti toscane. Mi sì. sembra che a Firenze sia anche c'è un quartiere che si chiama appunto Sanfrediano. Sì, forse che da Mantova siete andati là? Sì, qualche volta. Ah, allora ecco che abbiamo spiegato. Abbiamo conosciuto Le ragazze di Sanfrediano. Sì, e quindi e questa è una canzone, dedicata a loro nel bene e nel male, perché sono anche delle frecciatine, mi sembra. Sì, appunto. Mm. Era un pretesto per raccontare un po' anche la situazione odierna delle ragazze, insomma, che troppo facilmente... Basta. Che troppo facilmente. Qui invece si riscattano nel libro, poi alla fine si riscattano, e quindi... Speriamo in questo, anche nell'oggi, nell'odierno. Insomma. E l'idea dell'arrangiamento volutamente seguiva il testo, doveva essere così perché doveva essere movimentato. Sì, è quello più movimentato. Le altre sono storie d'amore. Sì, sono cantastorie, potremmo dire, d'amore. Sì, sono storie d'amore. Questa qui invece è una storia un pochino diversa rispetto alle altre, sì. E chi suona l'armonica in questo? Marco degli Esposti, che eccolo qua, a sinistra. Il nostro barrettiano, bisogna dirlo, che è molto amato di Syd Barrett, lui. Il vero Dylan del gruppo, della situazione. Bene, allora, visto che prima si ricordava ai nostri ascoltatori che i Cranchi sono arrivati muniti anche di strumenti musicali, direi che è giusto farli suonare per non tenerli fermi troppo, direi. Allora, cosa ci fate ascoltare, sempre dal vostro Caramelle Cinesi? Vi facciamo ascoltare il primo pezzo del CD, che si chiama Un Tema, e racconta la storia di una mamma e del proprio figlio. Bene, ascoltiamo con i Cranchi, ricordiamo il loro lavoro, si intitola Caramelle Cinesi, questo è Un Tema, qui da Blu Radio Veneto. Grigio del tuono. sviluppo in te un amore. Quando inizia, poi non muore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ecco qua, confermato, i Cranky sono arrivati con i loro strumenti musicali, quindi basso, due chitarre e una mini batteria, però diciamo che non sono soli perché a fare compagnia ai Cranky è arrivato anche chi, ci è stato detto, ha curato anche la copertina dell'album, davvero... carina e preziosa, perché ci sono dei disegni in bianco e nero veramente veramente belli, tanto per dire in una sola parola. E quindi Massimiliano, chi dobbiamo ringraziare lo per presentiamo? Questo? Sì, sì, lo presentiamo, come no? È Luca Tognolo. Luca Tognolo che è qua alla mia destra. Puoi avvicinarti, non si vede, vero, in radio? Non si puoi vede. Avvicinarti, ecco un momento, qua. Eccolo qua. Ecco qua, alto circa. Lo descriviamo, sì, che, poi... che curerà la copertina anche del prossimo album. Esatto. Ah, benissimo. Sì, okay. Già in lavorazione, ci sono già le canzoni, non c'è ancora il titolo. Però. Bene, però... poi naturalmente i nostri ascoltatori avranno modo di sentire queste registrazioni che stiamo tirando giù dalla serata, e oltre alle registrazioni audio, quindi il nostro archivio sonoro, ci saranno anche le fotografie che scattiamo in questa serata, e c'è anche l'ausilio del copertinaro di turno. Eh sì, è qua, no? Con la macchina fotografica minacciosa. si dice così. Comunque no, davvero, davvero complimenti per queste cose. Tra le altre mi veniva in mente anche una favola riguardo a questa copertina, forse Alice nel Paese delle Meraviglie con il bianconiglio, oppure il coniglio bisestile, non so adesso da dove sia arrivato. Vorrei far parlare un attimo anche lui per capire qual è stata l'ispirazione. Allora fatti coraggio, avvicinati verso il microfono, sì. Diciamo che penso che perdersi in un labirinto di foglie bianche, nere, di piante che crescono anche al sotto del terreno, sia un'immagine che possa evocare favole, non so, personaggi immaginari, e quel che un po' chiudendo gli occhi evocano le storie di Cranky, penso. Certo, e quindi quello... Il filo di Arianna, sì. Sono tutte evocazioni a favole, immagini irreali che comunque... Fanno divertire, fanno colorano, sì. Un po', no? Fanno quindi divertire... Non ha bisogno di colore la copertina, certo. Perché già il suono è colore. Già il suono è colore. Bene, questa è una bella sviolinata. No? No, comunque, grazie. No, ancora complimenti, perché è una copertina che si fa amare. Poi abbiamo citato anche il filo di Arianna, che tra altre cose è anche un pezzo. Sempre del vostro sì, disco. Un pezzo doloroso, Un pezzo? Doloroso. Vabbè, dopo ne parleremo. Avete ascoltato, abbiamo sentito un tema, che è il pezzo che noi abbiamo scelto, Flavio, per dare un là a questo disco. Quando con Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, che salutiamo, abbiamo ricevuto il disco, mi sono fermato immediatamente con questo pezzo. Gli altri sono belli, però questo mi ha vinto immediatamente. Ho detto, no, lo facciamo sentire, che è una bella ballata folk. Qua l'avete fatta in maniera un po' più ampia, là è più strimizzita, più scheletrica nel disco. A me ha attirato immediatamente e ho detto è bella, interessante, una ballata folk, pienamente folk. Come mai, Massimiliano, questa idea, questa ballata folk, al di là del discorso del testo? Noi arriviamo dal folk, comunque, soprattutto Marco, che è l'autore poi delle musiche, io più dei testi, Marco più delle musiche. Anche genere. Se Marco è un folk direi molto barrettiano, secondo me, vabbè. Decisamente. Però qua non so da dove derivi questa canzone qua. È stata una delle prime che abbiamo scritto, ancora quando avevamo il gruppo vecchio, tra virgolette. Certo. Perché prima il gruppo era di 7 elementi, era molto più... È stata la prima che suonavamo solo io e te. Ah, è okay. Stata la prima, sì, perché agli altri non piaceva. Ah, tra altre cose, appunto, Cranky ricordava che c'è stato appunto un passaggio da batterista a chitarrista ad un certo punto. Sì, da batterista a chitarrista, perché volevo esprimermi anche con delle parole, quindi la batteria si presta meno al cantautore, quindi ho dovuto imparare a suonare la chitarra e ancora sto imparando. E tra un po' ci sarà un altro passaggio ancora. Tra un po' comincerò a suonare anche la pianola, così. È un pluristrumentista, allora. No, sì, va bene, un pluri. Pluri, sì, dai. Usatore di strumenti. Ecco, esattamente, bene. E dalla batteria poi sono passato alla chitarra e nello stesso gruppo sono riuscito a ritagliarmi gli stessi musicisti per fare le mie cose, diciamo. E Marco mi ha seguito in questa mia evoluzione, è stato il più fedele. Gli altri hanno scelto altre strade, li saluto tutti, Margherita, Filippo, Anna, Antonio, Matteo, eccetera. Era il gruppo più. E da lì, insomma, alla fine siamo rimasti in quattro, anzi ne abbiamo trovati altri due. Devo dire che il mio gruppo è tutto di capelli lunghi e ricci, tranne Cranky, tutti i capelli, però in radio non si vede. No, beh, comunque per diciamo gli ascoltatori più attenti e più curiosi, soprattutto, si può accedere anche ai vostri filmatini su YouTube. Sì, abbiamo qualcosa. O qualche foto dove si vede che qualcuno ha proprio la stessa fisionomia di un cugino di campagna. Ecco, sì. Si può dire così, su questa cosa, senza fare riferimento a Federico Maio, che suona la batteria. E lì se posso, sì. Il primo video ufficiale che abbiamo fatto, che Anna ho, devo ringraziare Giovanni Lupi che ce l'ha fatto. Sì. E poi gli altri, insomma, sono tutti dei giochetti che fa il nostro batterista Federico Maio, che ringrazio anche lui. Riusciamo a farci notare anche su YouTube. Andate su YouTube, scrivete Cranky Band, perché se scrivete solo Cranky vi vengono fuori una serie interminabile di motoscafi. In effetti, Cranky Band, mi raccomando. Sì, diciamo che chi più facoltoso conosce anche il cognome Cranky per diciamo le grandi produzioni di yacht e natanti, sì, vari, perché invece ha il portafoglio della mia misura a fisarmonica ridotta, insomma, conosce. Però li conoscevi, però li conoscevi. Però perché passando nei moli, sai, prendi nota, ma non si sa mai se diventi ricco improvvisamente. Vabbè. Comunque, Cranky sono qua con noi in questa serata a Blu Radio Veneto, Blu Radio Sera. Ancora ringraziamo Massimiliano, Marco, Simone e Federico, che appunto insieme formano la band dei Cranky. Allora, facciamo un'altra piccola pausa presentando un altro pezzo dei vostri. Questa volta tocca alla traccia numero 7, quella che abbiamo anticipato, sì, prima, che allora non rubiamo niente alla tristezza. Prima ascoltiamo il pezzo. Va bene, poi ci e, poi, e poi lo commentiamo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un uomo che viveva con un filo attaccato dietro la cintura. Sembrava non curarsene, viveva tranquillo, sembrava tutto calmo e non si accorgeva quando il filo lo tirava, quando il filo lo sognava. Lui è un quadrato, il filo un cuscino, portava un profumo, profumo di donna e di una bambina in un paese lontano, di campi da calcio, di campi di grano, ed una promessa di fine estate. batteva le parole incrociate. Un giorno decise che ormai era tempo di vedere cosa mai ci fosse legato dall'altra parte del filo, dall'altra parte del mondo. Tirò a due mani, il filo si ruppe, scomparve di un colpo, neppure un rumore. La mia malinconia disse ma è il filo spezzato, è quel piccolo nodo che mi è rimasto attaccato alla cintura che ho in fondo al cuore. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ennesimo pezzo estratto da Caramelle Cinesi, questo lavoro per i Cranchi, la band che si è venuta a trovare da quel di Mantova ed è qui per presentare appunto Caramelle Cinesi, ma non solo. Allora, il filo di Arianna, noi conosciamo un po' la storia di quello che era il filo di Arianna col Teseo che va ad uccidere il Minotauro e che torna indietro grazie a questo filo che le era stato consegnato prima di entrare in quel castello che veniva definito labirinto. Ma forse non è la stessa storia. Non è la stessa storia. Arianna ha aiutato Teseo. Sì. E una ragazza mi ha aiutato nel mio percorso, però poi scoprendo com'era questa ragazza arrivando al Minotauro si è scoperto che non potevamo più stare insieme. E questa è la storia mia ed è Arianna, che è la mia ex ragazza, e da lì per quello che ho detto che era triste questa. Gli hai mandato una copia del disco? L'ha comprata. Ah, l'ha comprata. Beh, è giusto, insomma. Sì, vabbè, no. Le voglio tanto bene, la saluto. Ciao Arianna. Benissimo. Salutiamo anche Arianna. E visto che siamo entrati nel tema già di l'ha comprato, diciamo anche come facciamo per entrare in possesso del disco in maniera legale. Ah, sì, si può vendere in manicello. C'è anche il bolino della SIAE, è proprio tutto legale. Potete chiedere a me, costa 5 euro, si può dire? Si può dire, ragazzi. Come costa, certo, 5 certo, euro sì, sì. È proprio è regalato. Dovete scrivere a massimilianocranchi@gmail.com. Gmail.com, oppure contattateci su Facebook, Cranchi Band, oppure... Diciamo, chi vuole contribuire alla causa lo possiamo spedire, ovviamente, possiamo spedire il disco fisico per posta, o se qualcuno non vuole contribuire alla causa ma vuole ascoltarlo solo glielo spediamo via mail, che va benissimo uguale. Esatto. Bene, sì, comunque infatti. L'importante è che la musica giri. Certo. No? Sì, quindi, sì, assolutamente. E lo trovate in internet, SoundCloud, sì. MySpace, c'è dappertutto, YouTube. E musicalmente questo pezzo, che anche questo è abbastanza vivace rispetto agli altri due, cioè abbiamo scelto due pezzi vivaci. L'idea di questo arrangiamento è sempre sua praticamente. L'arrangiatore è Marco. È Marco. Marco, come ha avuto questa idea abbastanza cioè veloce, non è un pezzo lento, è abbastanza veloce. Dimmi. Se posso scaricare il barile, io l'avevo registrata con la chitarra acustica. Ah, poi molto lenta. Il tempo di batteria poi l'ha trovato. E il nostro batterista, il finale, hai dato un input nel finale. Vieni davanti al microfono, sono non ti sento. Eccolo qua, Federico armato dei suoi capelli. Il finale, non lo so, mi è venuto. Allora, devo intanto anticipare che. Vieni un po' avanti, ecco che. Devo intanto anticipare che. Io sono entrato poi nella band. Le canzoni c'erano già fatte. Erano già costruite le canzoni. Io le ho sentite proprio così. Poi in studio, in camera di Marco. Ma li hai modificate leggermente? Hai dato il tuo contributo, chiaramente? Io praticamente mi hanno detto: boh, queste sulle canzoni le abbiamo provate. Ma neanche qualche settimana prima, e poi registriamole, perché loro dovevano comunque registrare. Certo. Io ero entrato comunque nella band, poi abbiamo fatto qualche data fuori e in live erano un po' così, inventate sul momento. E poi nel disco dovevano essere precise, definite, precise, e quindi ho cercato di, non lo so come è venuto così, poi il finale ho cercato di dargli quel Sì. Non voglio usare termini batteristici, però ho cercato di rallentarlo in quel momento lì, perché comunque lo richiedeva, secondo me. Ma è quasi stoppato, come dire. Sì, spiegato, chiaramente. Ci stava. Ci stava. È inutile stare lì a parlare di... Certo, che poi ci stava anche molto bene, anche come pezzo assolutamente acustico. Questo si prestava molto bene anche in una versione acustica, perché sentendovi così in studio, va bene, con le apparecchiature che non sono propriamente da registrazione, però sentendo questo pezzo c'era qualche accomunanza. Sì, ma... Per aggiungere un'altra cosa, è proprio perché io ho iniziato a suonare con loro, erano prettamente acustici loro, quindi io sono proprio arrivato con le spazzole, l'ovetto e il cembalino, e proprio in live così, e quindi l'idea poi della registrazione... Hai contribuito a smuoverli un pochettino o no? Sì, ti conosci. Non lo so. Ma Federico, di la verità, da batterista, ti senti un po' limitato in questo? No, devo dire che invece rullante o altre cose. Devo dire che mi hanno dato veramente l'opportunità di crescere batteristicamente, invece di batteristicamente, proprio, perché magari uno pensa che la batteria deve essere rumore, casino, tamburi di qua e di là, invece la batteria è molto importante per non rovinare le canzoni, perché le canzoni sono le canzoni, la batteria deve essere l'ultima cosa importantissima, ma deve essere, secondo me, una delle ultime cose. E il nostro bassista come si comportava o come si comporta nell'ambito degli arrangiamenti? Il nostro bassista Simone, vai Simone. Insomma, diciamo che cerchiamo di andare un po' insieme, io e il Maio, insomma, io il nostro batterista, nel senso delle litigate, vero, non sono vero, prova, no. Litigate. Le litigate sono normali, però per fare qualcosa di buono si litiga, certo, ovviamente, certo. Per trovare un accordo, poi. esatto, quindi no, si cerca sempre di migliorare. Mi sto accorgendo anche adesso che stiamo registrando un altro album, che suonando di più, soprattutto col Maio, ci stiamo migliorando molto, stiamo entrando più in sintonia. Cosa che prima ovviamente c'era un po' meno, perché noi avevamo già fatto le canzoni praticamente, e quindi lui è entrato poi dopo, e quindi ha dovuto mettere la batteria su qualcosa di già fatto praticamente. Invece adesso stiamo cercando di creare qualcosa dall'inizio, e quindi secondo me è molto, molto bello quello che sta venendo, ecco. Prima si diceva che appunto le canzoni sono nate, diciamo, in camera di Marco, no? Qualcuno l'ha detto. E quindi ricordiamo che la vostra è un'autoproduzione targata totale. 2011. L'auto. Nel senso che vi siete messi in automobile a fare. Sì, quasi. Quasi. O quasi. Vabbè, e comunque direi che è venuta bene. Penso, dalle vostre parti, com'è presa la musica proposta da Cranky? Non c'è niente dalle nostre parti. Quindi, no, diceva della nostra musica. E di conseguenza, quindi, anche la risposta che ricevi quando suoni è, come dire, a mio avviso limitata, e ti limita anche nel suonare dal vivo, nel... Sì, cioè, perché poi... Per proporre, diciamo, le proprie canzoni. Certo, certo. Perché come succede dappertutto, o c'hai il pianone garantito, che fai le cover di Vasco Rossi senza andare troppo lontano, oppure se si presenta la Cranky Band a suonare le proprie canzoni... È dura. È dura. Adesso nel nostro paese è nata una star, e quindi tutta l'attenzione su di lui, che è il chitarrista dei Modà, che saluto, ciao Enrico. Ah, ecco là, sì, c'è anche lui. Adesso tutto è incentrato su di lui, ma giustamente... Giustamente. Però insomma, anche lui potrebbe spezzare una lancia in favore di Cranky. O no? Gli avete mandato il disco intanto? L'ha comprato pure lui? L'ha comprato, ma che lo sa? Io spezzerei una lancia a chi vuole ascoltare il disco, non a chi... Sì. Cioè, se uno è interessato e gli piace... ben volentieri, altrimenti è lo stesso per noi, nel senso puntiamo a farlo ascoltare a chi ha voglia di ascoltarlo. A chi ha voglia di ascoltarlo, cioè, certamente. Ascoltare e non sentire. Ascoltare e non sentire. Quello è diverso. Giustamente puntualizza Federico che è proprio l'ascoltare la tappa principale per poter apprezzare un disco, quindi anche... anche Simone diceva giusto, perché non per forza bisogna ascoltarlo, ma per piacere. E noi di Blu Radio Veneto ci mettiamo quasi ogni sera, diciamo, alla prova nel far ascoltare sempre della musica, diciamo, alternativa rispetto a quelle che sono i pezzi che si ascoltano normalmente. Musica originale al 100% vostra, di tutte le band, quello è il discorso. Grazie, questa è la caratteristica mille. Nostra. Beh, deve essere così, serve, secondo serve. Me. Non serve, abbiamo detto tante volte, facendo i grandi successi, non serve. No, quelli già li conosco. Appunto, esatto. Certo. Vabbè, allora, con i Cranchi fino alle 22.30 c'è spazio per un altro vostro pezzo live. Facciamo un pezzo live, facciamo Marco Polo. Marco Polo, bellissimo. Marco Polo, che dà il titolo all'album. Eppure erano soltanto caramelle cinesi al gusto di cannella, tu eri quella di sempre, la mia testa è un groviglio di parole poco usate, si appiccicavano alla bocca come rime scontate in versi ottonari. E buon viaggio, ci vediamo dopo, buon viaggio, starò via per poco. La tua schiena, la via della seta, verrà raccontata un milione di volte. Labbra deserte dopo la pioggia, rustichello, non riuscirà a immaginare. E sale la voglia di tornare da te e dalle tue Madeleine. Tu sarai quella di sempre, nella testa il sapore della tua pelle, ma la ricerca svanisce tra le mura spoglie di questa prigione. Buon viaggio, ci vediamo dopo, buon viaggio, starò via per poco. Seno pagode appuntite, punge il pensiero senza pudore, occhi accennati che sembrano chiusi, aspetta il mio ritorno. Erano soltanto caramelle cinesi al gusto di cannella, tu eri quella di sempre, la mia testa è un groviglio di parole poco usate, si appiccicavano alla bocca come rime scontate in versi ottonari. E buon viaggio, ci vediamo dopo, buon viaggio, via per poco. Buon viaggio, ci vediamo dopo, buon viaggio, starò via per poco. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E così abbiamo capito anche il perché del titolo Caramelle Cinesi. Loro sono i Cranky. Abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Marco Polo. Allora, questo Marco Polo che ha detto, a cui ci si è rivolto dicendo buon viaggio, ci vediamo dopo, e lui diceva, ha risposto, buon viaggio, tornerò tra poco. Ma in realtà ne è passato di tempo nel vero Marco Polo. Ma il Marco Polo di cui stiamo parlando nella canzone, Massimiliano? Sono sempre io, sì. Sei sempre tu. È tutta una scusa per parlare di me. Certo. Parla delle cose che sai, non di quelle che non sai, diceva un vecchio saggio. Io parlo, però trovo sempre degli escamotage, insomma, per parlare d'amore poi alla fine, perché certo, è quello che interessa. Questo Marco Polo che aveva l'amore per le scoperte sempre... devo dire la verità, è un'altra ragazza che però... mi ha sempre stupito nella mia vita, e un giorno mi ha dato da mangiare delle caramelle cinesi e da lì ho detto, guarda che delle volte le ragazze ti stupiscono con cose piccolissime, perché lei faceva tutti dei discorsi complicati che io non capivo, e da lì in versi ottonari, così, cioè la ricerca di una persona che ti può stupire, insomma, che ti accresce, anche non solo la tua ragazza, ma anche... Perché dicono che non ci può essere amicizia tra uomo e donna, però molto spesso invece a me capita. Sì, a me no, capita molto spesso anche a me. È fortunato. Sì. Parliamo dell'arrangiamento che avete fatto qua stasera in questo momento, era molto interessante, molto delicato e molto importante il discorso dei cori, che sì, è fondamentale secondo me. Sì, noi... dell'impasto fra le due voci, tra Marco infatti, e te. Infatti, abbiamo voci molto differenti, io ho una voce molto bassa. E un po' più alta. E lui riesce sempre a trovare la quinta, la terza, adesso io. No, lui è molto, in gamba a fare questo. L'idea dimmi. Scusami. No, volevo solo, l'idea dell'impasto vocale è nata da Marco e da te, o è venuta fuori così al momento? No, nasce da Marco. Da Marco direttamente. Io all'inizio dicevo sempre non cantare qua, non cantare qua, non cantare qua. Invece poi alla fine sta molto bene Marco che canta. Ti devo dire, nel nuovo album abbiamo cercato di coinvolgere anche gli altri due elementi. Ci sta una variazione rispetto al trend di questo album, nel nuovo album, oppure si seguirà il discorso solito? Cioè solito, che hai parto di questo. Sarà molto diverso da un punto di vista della tematica, perché si parla proprio di storie vere e proprie, non più d'amore, ce ne sono un paio d'amore, però sono storie abbastanza forti che mi hanno colpito. E in più c'è questa cosa che canteremo in quattro, in molti pezzi, con molti cori. Facciamo... Bene, bene. C'era il problema che mai io, venendo dalla scena punk, doveva fare dei versi, invece l'abbiamo stoppato. Invece abbiamo scoperto anche una bella voce. Bene, bene. Molto bene. No, tra altre cose, adesso parlando anche del vostro nuovo disco, sta già girando su internet, appunto, uno dei vostri pezzi, che è il cuoco anarchico, che è dedicato a una persona che stava cambiando in un certo senso la storia. Sì, stava cambiando la storia, stiamo parlando di Giovanni Passannante, che è stato un anarchico, che fu anche incaricato all'attentato di uno dei Savoia, Umberto I di Savoia, all'inizio il primo, perché è il primo re d'Italia, secondo me, perché si chiama Umberto I. Invece c'era Vittorio Emanuele II e Umberto I, quindi Umberto I secondo me rappresenta, perché il primo è stato quello che ha unito l'Italia, quindi c'era ancora quell'emozione. Il primo, secondo me, vero re d'Italia è stato Umberto I, e da lì l'italiano ha capito che non voleva essere governato dal re. Non è una canzone politica, posso dirlo, è una canzone contro il regime di qualsiasi tipo. E il fatto di colpire da soli a volto scoperto, secondo me, è stata un'azione molto forte, e dopo quello che ha subito, soprattutto, e ancora adesso subisce nel Museo della Criminologia di Roma, ancora il suo cervello esposto sarebbe l'ora di seppellirlo. Un anche po' come lui. Il teschio di Cartesio in quel di Parigi. No, comunque ricordiamo appunto Giovanni Passannante, fu condannato a morte e poi la sua pena è stata commutata in ergastolo. Da lì è diventato pazzo ed è stato trasferito in manicomio. Sì, in ergastolo però anche a condizioni. Sì, in condizioni lui era alto 1,60 e in realtà la cella era alta 1,40, legato con 18 kg di catene, tutti i giorni non riusciva a alzarsi in piedi, mangiava pane e acqua e naturalmente non c'aveva il bagno in questa cella. Certo. Diventiamo pazzi tutti. Direi proprio di sì. Vabbè, e quindi questo... E se vuoi possiamo fartela ascoltare dopo questo. Ma volentieri, volentieri. Anzi, se volete... La facciamo? Dal vivo, facciamola subito. Vabbè, facciamo. Stravolgiamo... Visto che ne abbiamo parlato. Stravolgiamo la scaletta, quindi ci ascoltiamo questo... Il cuoco anarchico che è ancora quasi inedito, si può dire, no? Quindi non sì, ancora... Sì, c'è qualcosina su internet, se cercate. Benissimo, ci ascoltiamo. Vennero 10 soldati con le sciabole ai fianchi e vennero 4 dottori con il bisturi e camici bianchi. Restarono solo la mia berretta e un poeta romagnolo e la mia berretta da cuoco. Faccia da cane a vedere se ero già morto o se finalmente ero pazzo davvero e che misure aveva il mio corpo. Mi aprirono il cranio e mi sezionarono il cervello, ma non trovarono che una bandiera ricavata da un cappello. Nai, na, na. Vennero 6 tipi strani su altrettanti cavalli, vennero con le camicie a portar via questa famiglia di matti. Una vecchia signora di 76 anni e 5 figli ignoranti. Mio padre è partito da tempo, sarebbe morto dallo spavento. Io alto 1,60 con un coltellino da tasca, buono soltanto per spicciare le mele e arrivare senza giacca. Giovanni se ne esce dalla folla per colpire con forza, per colpire con forza da solo un intero sistema. Vennero 18 kg di catena a mortificare le carni, un soffitto di pietra sotto l'isola d'Elba e nessuno a salvarmi. Le mie suppliche al cielo, le mie suppliche al mondo, le mie suppliche al mondo ascoltate solo da un guardiano al sole. Na, na, na, na. Questo per aver attentato alla vita di uno coi baffi da scena, con occhi da trota e i baffi da scena. Passanante il cuoco ha spaventato il regime, è morto il re, viva la Repubblica Universale. Morto il re, viva la Repubblica Universale. Morto il re, viva la Repubblica Universale. Morte al re, viva la Repubblica Universale. Na, na, na. Na, na. Sanremo, viva la Repubblica Universale, e morte al re, e viva la Repubblica Universale, e morte al re, e viva la Repubblica Universale, e morte al re, e viva la Repubblica Universale, e morte al re. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato questa anteprima di Il Cuoco Anarchico, un pezzo dedicato alla storia vera, un pezzo dedicato a questo Giovanni Passannante, che è stato uno dei protagonisti anarchici, diciamo, di quella che era l'inizio, mi sembra intorno al 1880, da quelle parti lì, 1878. Sì, so che adesso ricordo. Sì, il re è morto nel 1901. Esatto. È successo un po' prima, insomma. Sì, sì. Perché poi Gaetano Bresci ci è riuscito. Ecco. Infatti nell'album c'è un'altra canzone che si chiama Gaetano, c'è qualche riferimento. Sì, sì, sì. Poi ci sono altri personaggi della storia coinvolti nel vostro disco. Sì, adesso abbiamo Giuseppe Musolino, che era un brigante calabrese. Sì. Sì. E poi abbiamo Neda, che è una ragazza morta nella primavera iraniana, nella protesta verde. E poi, aiutami Marco, cosa abbiamo? Sto pensando, c'è un... Ah, poi abbiamo due pezzi che riguardano il Vangelo, tra virgolette, il Vangelo secondo noi, rivisitato. Uno si chiama Il Ritorno di Maddalena, e poi c'è Mia Madre e Mio Padre, che è dedicato alla figura di Giuseppe. Sì. E di Maria, insomma. Certo. Benissimo, tra le altre cose anche il tema del brigantaggio è ritornato di moda proprio qui che siamo a festeggiare, e chi festeggia un po' meno, chi festeggia un po' di più, i 150 anni dell'unificazione d'Italia, per cui i briganti dipendeva da che parte si vedevano, no? Sì, quindi per alcuni erano eroi nazionali e per altri invece... In realtà Musolino è stato uno dei pochi briganti che era a favore poi della nazione italiana. Ho letto molte cose prima di scrivere la canzone, ma io più che altro scrivo la canzone perché mi colpisce la storia, poi mi informo anche e provo a scrivere anche, però in genere è più l'emozione che mi porta a scrivere, poi se scrivo anche qualcosa di inesatto non mi importa, perché alla fine è una cosa che mi dà emozione. E ho imparato a conoscere anch'io Giuseppe Musolino, che è stato il primo caso di ingiustizia totale dell'ingiustizia italiana. Certo. Tu hai citato i briganti, a proposito dei briganti, Flavio, è uscito proprio oggi il disco nuovo di Eugenio Bennato, dove c'è Brigante se muore. Ah, Brigante se muore, benissimo. Tra altre cose anche Eugenio Bennato, abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo, seppur telefonicamente, ed avere, diciamo, in anteprima quelli che sono stati i pezzi che adesso formano il suo ultimo lavoro. L'avevamo intervistato proprio per l'uscita del suo lavoro libro che si intitolava Briganti se muore, per l'appunto. Benissimo, ma torniamo a bomba con i Cranchi. Stiamo parlando con loro piacevolmente di Caramelle Cinesi, quest'album che ha visto la luce nel febbraio del 2011, e come abbiamo capito dalla recentissima conversazione, si sta proponendo anche con un altro lavoro che, a quanto abbiamo capito, vedrà la luce agli inizi di febbraio. Forse un po' dopo, primavera, dai, primavera. Per la primavera, sì, per cui marzo, ci prenotiamo già un altro passaggio qui in radio, così in d'amblè. Con piacere. Certamente, perché giustamente il nostro direttore artistico Alberto ha visto giusto quando vi ha invitato, e meditavate assolutamente. Grazie. E quel pezzo che abbiamo sentito in anteprima assoluta è veramente molto bello, molto indicativo di una nuova stagione vostra musicale, no? Sì, ho detto, abbiamo fatto un po' il cambio di rotta, perché quindi... nasce col gruppo. Ci sono quattro voci, è molto bello anche quello lì, i quattro cori, quattro voci diverse, non solo due, gli altri due, quindi il bassista e il batterista, che hanno dato un impulso, un vigore notevole. Sì, infatti. Altre cose, allora la prossima volta, oltre a parlare di musica, dovremmo venire qua a Maurizio preparati anche sui temi storici. Sì, esattamente, mi raccomando. Molto ferrati loro, esattamente. Assolutamente sì. Benissimo, allora continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo dal disco dei Cranchi, appunto Caramelle Cinesi, ascoltando la traccia numero 8. Vuoi presentarla, Massimiliano? Sì, pezzo storico anche questo, perché la Berezina è un fiume ucraino, se non sbaglio, dove Napoleone ha avuto la disfatta finale nel ritorno da Mosca, ed è un'altra scusa per parlare d'amore. Basta, direi che questa è la presentazione. Blu Radio Sera. Senza fiato tutta questa gente che mi alita alle spalle. Sei troppo bella perché nel mio cuore ci sia battaglia. Dormirò nel tuo letto stasera senza chiederti il permesso. Le tue mani fredde mi ricordano mia madre quando veniva di notte a consolarmi. Ora possono salvarmi. E gira la giostra tra il vincente e chi deve scappare. Lo so già che tu non mi lascerai andare. Terra bruciata anche come il latte, da padrone del mondo mi ritrovo con la faccia nel fango. Terra straniera dall'accento troppo duro, qui ti ho conosciuta e ora canto la mia paura. Grande armata, fatemi il piacere, dispersi come mosche, sono uno dei tanti. E gira la giostra tra il vincente e chi deve scappare. Lo so già che tu non mi lascerai andare. E gira la giostra tra l'amante e chi deve lasciare. Lo so già che tu Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo, si intitola Berezina, tratto dall'album Caramelle Cinesi dei Cranchi Band, sono venuti qui da Mantova. Allora, abbiamo parlato prima di Berezina, che è uno dei fiumi russi della Bielorussia, mi pare, attuale Bielorussia. Bielorussia, credo. Beh, Ucraina, forse, però vero? Comunque va bene, siamo in quella zona, diciamo, ovest rispetto alla grande Russia, sì. E dove Napoleone Bonaparte, come tu giustamente dicevi prima, cercava di far breccia nel territorio russo e quindi per conquistare sempre nuove zone. Ma cosa è successo? Che Napoleone non aveva fatto il conto non solo con la forza russa, in quanto col generale Inverno, ma col generale, esatto, Inverno, che è stato veramente quello che ha fatto rovesciare completamente quella che era la campagna di Russia nel 1812. E mi piaceva questa immagine del vincitore che si accasciava sul fiume e mentre moriva diceva: vabbè, adesso perdo, però c'ho il fiume, quindi io mi innamoro di questo fiume. Anche perché dobbiamo dire che noi abitiamo tutti sul fiume, sì. Una cosa che ci accomuna molto, il Po. E io, noi lo viviamo molto il fiume, infatti andiamo a pescare, andiamo. È stupendo. Avete anche il Mincio da quelle parti. Anche il Mincio, però noi il Mincio è un pochino più lontano. Ma noi viviamo proprio sul Po. A me piace dire che dove abito io c'è solo il Po. Esatto. Ah, praticamente poi il Po. La nebbia, poi la nebbia. Da noi non lo vive nessuno, ma sarebbe da vivere, perché è molto bello il Po. E secondo me, per chi suona, aiuta molto anche a trovare determinate emozioni, determinate sensazioni un po'. Da ispirazione, insomma, il Po, sì, possiamo il Po, dire questo. Sì, il Po è un misto, è un misto. È dove ci si può portare la ragazza, ma è dove si può andare anche là con la chitarra a suonare. Sì, è una cosa giusta questa, sì. Un grande fiume, i grandi fiumi danno sempre ispirazione. Portiamo di perché The River, mare di, un po' del Boss, per esempio, parlando The River, quindi. Sì, The River, perché è il mare un po' lontano, anche un fiume arriva ad essere capo di ispirazioni. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione la stiamo registrando e sarà presente in maniera molto prossima all'interno dei nostri archivi sonori, quindi collegandovi al nostro sito bluradioveneto.it e cliccando all'interno della pagina dedicata ai Cranchi potrete riascoltare questa trasmissione. Non solo, vogliamo stupirvi, all'interno della nostra pagina Facebook saranno presenti anche le foto della serata, appunto, che stiamo vivendo ora. Salutiamo un momento la Rossella, sono le 22.04, come sempre presente alle nostre trasmissioni via radio, sentendo per sì, la radio. Certo, e ricordiamo ai più che Rossella è appunto la fornitrice ufficiale, fornitrice ufficiale dei giornali di Maurizio Caldavara, non solamente di quelli di carattere, diciamo, diaristico, quindi giornalieri, ma anche quelli di carattere musicale. Certo, certo. Quindi certo. Tramite lei si tiene informato su tutte le uscite dei dischi. Vabbè, è un buon lavoro anche quello. Certo, assolutamente. Indubbiamente. Sì. Bene, allora, Cranchi, facciamo qualcosa dal vivo. Facciamo qualcosa dal vivo. Cosa succede adesso? Ma adesso vorremmo presentarti un'altra canzone dell'album nuovo. Siamo entusiasti dell'album nuovo. Lanciatissimi. Il marketing ci imporrebbe di presentare l'album vecchio, ma noi siamo fuori marketing. E quindi ti presentiamo questo pezzo che si chiama La primavera di Neda e racconta di questa ragazza uccisa dal regime iraniano. E ho accomunato un po' tutte le primavere della storia, da quella di Praga a quella cinese di Piazza Tiananmen, e quindi ho cercato di fare un testo sui giovani che si ribellano al regime. Bene, ce l'ascoltiamo con i Cranchi. Qualcuno andò sui tetti con le braccia al cielo, altri rimasero in strada a prenderle di santa ragione per una qualche ragione di regime. Scomparvero sotto i nostri occhi con i denti maciullati e l'onda verde diventava rossa e pian piano coagulava per strade lavate da menzogne e da religiosi col cappello nero, meticolosi suonatori di tar qui nell'inferno di Teheran. Neda verrà di sicuro, primavera anche qua, al sicuro tu lo sei già. Una ragazza ragazza dai capelli neri in mezzo a un fiume di persone arginate da un ingegnere che dai suoi conti strampalati poteva essere fine giugno o il 16 gennaio. Quel fuoco non si spegne a colpi di mortaio, a colpi di fucile, di pistola o di cannone, brandendo un bastone, a noi basta il tuo nome. Neda verrà di sicuro, primavera anche qua, al sicuro tu lo sei già. E quando la tua voce si spense, molte altre presero forza, coprirono l'eco degli spari e ti seminarono nel giardino dei giusti. Importeremo sportine cinesi per fermare i carri armati, i contrabbandieri di tabacco olandese, i motorini dei soldati. E mentre il velo scivolava via, la tua voce sorrideva, perché guardavi lontano, sapevi di non morire invano. Neda verrà di sicuro, primavera anche qua, al sicuro tu lo sei già. Neda verrà di sicuro, primavera anche qua. Neda verrà di sicuro, primavera anche qua. Neda. Qualcuno andò sui tetti con le braccia al cielo, altri rimasero in strada a prenderle di santa ragione, per una qualche ragione di regime, scomparvero sotto i nostri occhi, con i denti maciullati, e l'onda verde diventava rossa, pian piano coagulava, per strade lavate da menzogne, e da religiosi col cappello nero, meticolosi suonatori di tar, qui nell'inferno di Teheran. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E quelli qua, i Cranky, un altro pezzo live del quale non eravamo assolutamente preparati né io né Maurizio, però ci fa piacere sentire queste anteprime di quelle che sarà il nuovo lavoro. A questo punto c'è già un'idea anche di titolo? Eh no, è quello che ci manca. Chiediamo anche alla gente che magari va su Facebook e ci guarda, viene ai concerti, chiediamo un'idea. Proprio non abbiamo idea di come chiamarli. Diceva giustamente Luca, quello che ha disegnato la copertina, che lui ama particolarmente questo pezzo. Io posso dire che è un pezzo molto sofferto, molto partecipato. Si sentiva mentre lo cantava. Sì, sì, poi non lo so, perché adesso non vorrei essere troppo. Però io l'ho chiamata la primavera di Neda molto prima che venisse chiamata la primavera araba, quando poi è successo. Certo, quello è successo. Non lo so, mi aveva colpito molto questa storia di questa ragazza ammazzata per niente, perché poi certo, era in strada. Quante manifestazioni facciamo noi? E niente, così. Non so, soffro anche. Magari non nella vita reale soffro meno, faccio vedere meno i sentimenti, però quando sto da solo nella mia camera e magari mi arrivano queste notizie, soprattutto quelle di repressione, mi danno dei brividi sulla schiena. E questo arrangiamento molto tenue, molto delicato, Marco colorava il discorso con quel giro di chitarra. Dimmi Marco, volevi dire qualcosa? No, non volevi dire niente. Il giro di questa canzone è merito di Marco. Lui, che era una canzone, in realtà lui ha scritto una canzone di Art of Wind, perché Marco c'ha anche molte altre attività. Art of Wind, Great Northern X, insomma, tanti gruppi per Marco. E aveva questo giro che faceva con Art of Wind, che poi è diventata una canzone dei Grand Northern X. A me piaceva molto, e gliel'ho rubata un pochettino, è diventata Neda, cambiando naturalmente. A me piace rubare le canzoni a Marco, perché intanto non mi chiede mai i soldi del copyright. Ah, perfetto. Vabbè, allora, sempre Cranky, abbiamo parlato appunto di Caramelle Cinesi, ma anche di quella che sarà la prossima produzione. Ricordiamo che ci sono anche diversi video da poter vedere e gustarsi su internet. Sono presenti il video di Ulisse, un pezzo che è all'interno anche di Caramelle Cinesi, dove canta Marta Contronieri, che salutiamo e ringraziamo per la sua splendida voce. Facciamo anche congratulazioni. Esatto. E le congratulazioni, non sappiamo se è nato suo figlio. Sì, è nato suo figlio. Va bene, non sapevo. Beh. Ecco, abbiamo imparato, facciamo gli auguri, visto auguri, che auguri a Marta. Quindi, ecco, sappiamo anche il nome del bimbo o della bimba? Oddio, no, no. No. Vabbè. Okay. E, allora, tra altre cose sarà anche un pezzo che andremo a sentire tra poco, poi c'è anche il video di Anna O, che è un video che inizia con una lacrima al contrario. Sì, e poi si sa anche perché sta lacrimando. Sì, non diciamolo. Però, non diciamolo. Non diciamolo. No, no, vabbè, comunque. Girato sempre da Giovanni Luppi, che sì, ho ringraziato anche prima, e l'attrice protagonista è la Susanna Cavallini. Mm-hmm. E niente, ringraziamo anche lei. È un video colorato, allegro. Sì, molto, molto allegro. È il video allegro, anche se lei piange, il video allegro, scoprirete il perché. Sì, sì, certo. Quindi andate pure su internet alla fine di questa trasmissione. Sempre scrivete Anna O, Cranky Band, mi raccomando, ecco, band. Bene. E poi c'è anche un altro pezzo, che è la traccia numero 10 anche del vostro disco, che si intitola Repubblica. Appunto, legato comunque anche a quella che poi è la continuazione legata alla storia, no, dell'album. Bravo, sì. Infatti, l'ultima canzone di questo album, diciamo che va a finire nell'album prossimo, ecco, perché è il primo accenno di... però la Repubblica è femminile, quindi la Repubblica è femmina, era tutto un CD dedicato a delle femmine, e invece si ricollega alla storia del prossimo CD, che invece è dedicato all'Italia e a storie di, insomma, storie belle. L'altra cosa è un video molto curioso, perché ci sono tutte le vostre teste che cambiano in continuazione. È colpa di Maya. Ecco, ringraziamo il batterista qui. Sì, sì. E tra altre cose c'è un abbigliamento anni 70 con pantaloni rigorosamente a zampa di elefante, che in un certo senso ricordano anche quelli che abbiamo citato prima, i Cugini di Campania. No, invece no. No, devo, ecco, correggerti. Sono, sì, possono ricordare, però sono i Meters. Ah, i Meters. E ecco, quindi qua. Sì, insomma, a me piace molto funk, cioè tutto quello che ne concerne dietro, e quindi non so, mi capitava di vedere foto e avere foto per le mani in quel periodo che ho fatto il video, la settimana scorsa, due settimane fa, e ho detto, ma cavolo, cioè, siamo noi. D'accordo, sì, sì, siamo noi. Perché non metterci in testa? Perché non iniziare a imparare a usare un programma senza far pubblicità? E quindi ho iniziato a utilizzarlo. No, davvero, veramente, cari ascoltatori, se avete voglia, tempo, subito dopo la trasmissione, andatevi a gustare questi video, che veramente lasciano un po' di allegria in più rispetto anche appunto all'andamento della trasmissione, che comunque è sempre sull'ilarità e sulla voglia di trasmettere musica. Allora, sono le 22:15, abbiamo ancora 15 minuti per stare insieme. Prendiamo un po' di fiato, ascoltiamo la traccia numero 3, che si intitola per l'appunto Ulisse, con la voce femminile ricordata Marta Poltronieri. Sì, di Marta Poltronieri, e poi torniamo a commentarla insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Al mattino mi chiedo capire le cose che ancora non so. E alla sera mi chiedi tu cosa provi. Io vedo il mare. Città, il fumo che scende per strada mi perde, e le tue luci che sanno di libertà riescono solamente a confondere la notte. Sarò diversa da te quando domani ti risveglierai e appoggerai la testa sulla spalla. Ma non sarai felice. Radio Sera. Blu Radio Sera. I Cranchi con la splendida voce di Marta Poltronieri per questa canzone che si intitola Ulisse, che ha qualcosa a che vedere con il personaggio della mitologia? No, è sempre una storia legata a Cranchi. È vero? E parla di profondità di vedute, cioè di punti di vista. Uno crede delle volte di essere molto... Perché ride il bassino? No, conoscendo la storia... Ah, per quello ride. Che diceva. Ah, lui c'era. Sì. E niente, mi sono accorto che delle volte ci si considera molto profondi, in realtà... una persona accanto a te vede cose che tu non vedi e ti stupisce questa cosa. Quindi tipo l'essenziale invisibile agli occhi, come diceva lo scrittore del Piccolo Principe. Sì. Come diceva anche De Gregori, Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi, è un cuore che non basta agli occhi. Ecco. E, insomma, volevo dire, questa diversità di punti di vista c'è tra Ulisse e Penelope, perché Ulisse è uno che vuole sempre viaggiare, vuole vedere. Non è detto che Ulisse sia migliore di Penelope, magari Penelope, stando davanti a casa, vede il mare e gli basta guardare il mare. Magari è più profonda, si può dire più profonda? Sì, sì. È più profonda Penelope di Ulisse? Non lo so, è una domanda che mi faccio. Certo. Diciamo anche che è un modo per difendersi di Massimiliano da qualche sua diciamo mancanza, ecco. Diciamo certo. Questo sì, io ho molte mancanze nei rapporti affettivi, sono molto profondo nelle canzoni, in quello che leggo, in quello che scrivo, però nella vita quotidiana vabbè, quindi c'è l'alter ego ho qualche problema di espressione. Bene, adesso cerchiamo di capire un po' di più di come si è formata la band di Cranky attraverso quelli che sono i vostri gusti musicali, ovvero come è nato ognuno di voi ascoltando chi e che cosa, visto che sono pochi minuti ancora che mancano alla fine della trasmissione, siamo un po' stringati, chiediamo almeno tre personaggi per ciascuno allegati a tre album di impatto nel vostro percorso artistico. Cominciamo da Simone, il bassista. Ma vabbè, il primo proprio che mi viene in mente è Fabrizio De André. Gli album ce ne sono più di uno, diciamo Fabrizio, un po' in generale, ecco. Diciamo che è stato forse il primo che ho iniziato ad ascoltare che mi ha colpito. Poi dopo, se vogliamo spaziare in altri tipi di musica, vabbè, non possiamo dimenticare i Beatles perché secondo me sono una parte importante di quello che ho ascoltato e di quello che ancora tuttora ascolto e che deriva sicuramente dalle influenze dei Beatles. E poi direi infine i Love con Forever Change. Ah, i Love hai citato, mi fa molto, devo alzarmi in piedi un'altra volta adesso perché citando i Love, gruppo straordinario, senza far scricchiolare la sedia, Maurizio. Esatto, i Love è un gruppo straordinario, poi quel disco là è straordinario e devo ringraziare Marco che me l'ha fatti conoscere. Ma io sapevo che lui è barettiano, c'è poco da fare, lui arriva sempre a certe cose. Esatto. Tante cose, fa parte delle segnalazioni rare questo dei Love, penso che sia la seconda volta in 5 anni o in 6 anni che una band cita Love, sono molto contento di questo. Benissimo, adesso il batterista, quello che viene definito il panchettaro della band. Allora, io sono partito con i dischi di mio papà, quindi va proprio alla grande, tipo dalle Orme agli Uriah Heep e arrivando a e adesso cito il thrash, It's Alive dei Ramones. E poi dopo adesso sto studiando tante cose, quindi a me piace il jazz e adesso ascolto jazz. Altra cosa, ho nominato le Orme e giusto dove è seduto adesso Federico Maio, c'era qualche mese fa c'era seduto Aldo Tagliapietra, eccola, per cui che era venuto per presentare il suo Unplugged. Una sedia molto calda Bene, e contiamo anche di averlo per il prossimo 2012. E adesso tocca Massimiliano. Come io sono molto attento ai testi e quindi sarò molto scontato. Paolo Conte, uno su tutti, e per citare De André sarò molto preciso, volume 8, perché lì si sente De Gregori, appunto, per quello io amo De Gregori. Cattiva strada. E quindi sì, c'è proprio la chitarra di De Gregori. E poi in generale citerei Another Side of Bob Dylan, proprio il CD specifico, quello lì, canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, il meglio che ci può essere. Vabbè, sono stato scontato, mi dispiace. Vabbè, adesso per chiudere con Marco. Allora, la carta Bob Dylan abbiamo appena giocata, quindi faccio senza, ma anche di classiconi. Mi viene a pensare il primo di Leonard Cohen, qualcosa di Neil Young sicuramente, magari quei Crazy Horses, qualcosa di un po' più duretti, un po' più rockettaro, esattamente. Esatto. E poi la mia rivelazione dell'anno, proprio che sono rimasto folgorato, che mi mancava, che sono i 13 Floor Elevators, che per me è stata... Sei andato molto indietro la allora. Botta, questa è stata proprio la botta, quindi mettiamoci in The Psychedelic Sound. Sì, assolutamente, psichedelia allo stato puro, con quella copertina che la ricordo gialla e rossa, mi esatto. sembra, no? Esattamente. Ecco, molto, molto, molto presente ancora nei miei occhi. Allora, abbiamo citato prima De Gregori e so che avete una cover da proporre. È una delle poche cover che facciamo dal vivo e la facciamo sempre in mezzo al pubblico senza amplificatori. Per ultima. Bene. E suona solo Marco, per rispetto. Però cantiamo tutti. Allora, la vogliamo presentare, è un pezzo di tanto tempo fa. Forse il primo che ha inciso De Gregori, che è Dolce Signora che bruci. Esattamente. Che la canta con Antonello Venditti. Esatto, nel famoso... mitico album. Penso che poi non abbiamo più cantato insieme. No, da Theorius Campus no, assolutamente. Esatto. Bene, allora ci ascoltiamo. Dispiace. Dolce signora che bruci, per che cosa stai bruciando? I gerani al tuo balcone si stanno consumando. Dolce signora che bruci, qual è il tuo peccato originale? Quant'acqua è passata sul tuo corpo di sale? Il tuo album di foto sta andando alla deriva. Il tuo amante prezioso se n'è andato un'ora fa. Ma io posso capire la tua età. Ma io posso capire la tua età. Dolce signora che bruci, i soldati che aspettavi sono tutti alla tua porta che aspettano le chiavi. Stanotte potrai capire sul mio letto di velluto gli specchi che hai spezzato, i figli che hai perduto. Il tuo album di foto sta andando alla deriva. Il tuo amante prezioso se n'è andato un'ora fa. Ma io posso capire la tua età. Ma io posso capire la tua età. La la la la la la la la la la la la. Io posso capire la tua età. Ma io posso capire la tua età. Blu Radio Veneto. Blu Radio, Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono passati tanti e tanti anni, quasi non la ricordavo neanche più. Bellissimo. Fortuna che sono arrivati i Crank. Esatto, veramente sono stati a rimetterci a buono stato la memoria di questo pezzo tratto da Theorius Campus con De Gregori, appunto, e Venditti, come ricordato prima. Abbiamo ascoltato un bel po' di canzoni tratte da Caramelle Cinesi, abbiamo ascoltato anche qualche inedito, abbiamo dato ancora qualche dritta per come entrare in possesso dei CD e per come poter vedere all'interno di internet alcuni dei filmati dei Cranky. Mi raccomando, cercate come Cranky Band così vi vengono fuori i vari filmatini. Vi voglio consigliare i filmati legati a Ulisse, a Anna O, e poi ancora a Repubblica, e a quello che è ancora un semi inedito che abbiamo ascoltato in questa sera, che si intitola Il cuoco anarchico. Andate su internet, siate curiosi, diceva anche Jobs, siate folli, siate curiosi, ecco, in questo senso. Bene, allora ringraziamo Maurizio i Cranky per essere stati con noi, quindi ringraziamo Federico, ringraziamo Simone, ringraziamo Marco, Massimiliano, che insieme formano i Cranky. L'appuntamento è per quando? Molto prossimo, vero? Sì, per domani avremo un'altra band, sì. Ma con te la prossima settimana un tributo a Rino Gaetano. Benissimo, invece con i Cranky naturalmente per la primavera dell'anno prossimo, del 2012, per la presentazione completa di quello che è l'album che sta avendo appunto le prime manifestazioni sonore in giro. Allora, buon rientro in quel di Mantova e dintorni, salutateci il Po e ci vediamo presto. Grazie, grazie a voi. Però, grazie a voi. Ecco, però non pensate ad andare via così. No. No, assolutamente. Ci stavamo già alzando. Sì, no. ci vuole un altro pezzo. Io e Maurizio adesso chiudiamo il microfono e lasciamo completamente a voi la parte, perfetto, della chiusura. Vi facciamo l'ultimo pezzo che facciamo di solito ai concerti prima di Dolce Signora che Bruci, che è Anna O. È una piccola ninna nanna, niente di complicato, per darvi una buona serata e ringraziare. Allora Cranky, lasciateci solo salutare il nostro pubblico da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande e caloroso ciao, risentirci a presto, vi lasciamo con i Cranky. Grazie ancora ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Grande storia da raccontarti, più che altro una piccola storia d'amore come tante, ma prova a contare i pensieri di oggi, poi dimmi in quanti di questi riesci a trovarli, e poi se non è amore traducilo in qualcosa di pratico questa notte. E a pensarci non ho un granché da offrirti, son poche parole sparse per addormentarti, fallo piano. E conta i sogni che vengono a cercarti, poi dimmi in quanti di questi riesci a trovarmi, e vedrai. Se sarà amore lo scopriamo appoggiati al cuscino domani mattina. La la la la la, la. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto.